ingiustizia che io non posso venire a conoscerti perché solo lui è lì. È un'ingiustizia bella e buona. Ok, e lo dico perché adesso c'era dall'altra parte che c'era partito ed era lui alla macchina, credo, perché quando l'ho chiamato. Ma ieri tuo padre ha portato dove c'era il caldino? Sì, positivo, è andato a Balai in palazzo mio. Io non sono venuto perché lì a Balai non si può fare niente in due, si può partire in uno a Balai. Alla gentiera e anche così, perché a Balai no. L'ho visto, c'è una macchina. Doveva essere una... come si chiama? Vabbè, diciamo una delle strisce, la macchina. È la macchina americana, ce l'ha detto. Ah, non ha strisce il pick-up. Il pick-up è tutto blu e basta. Sì, allora non era lui. Questa qua aveva le strisce. Era un pick-up con le strisce. Ma secondo me non era americano. Erano di quelli fatti per l'Europa. Non era americano sicuramente. Sì. La mia motocicletta, la l'ha vista a Babbo, ha detto che è molto bella comunque. Eugenio, che microfono stai usando? Microfono originale, Esce bene, che radio è questo? Questo è un Intec di Plus, non so cosa. Va bene, il radio è perfetto. Esattamente, c'è bene. Ma l'hai modificato. Ma quanto stai usando? Non è più 5? Scappa. Si spinge, va benissimo. Ehi, sono lontano tutto il braccio, immagina, io sono sbagliato la netta, c'è tutto il braccio lungo. Spinge, anda dentro lei. Spinge sì. Adesso già spinge. spinge quasi la mettiamo in buio. Sai che lì era sempre fermo in quella posizione, quindi si chiamava sempre, E poi c'è come è stato spostato, non lo so. E ok, comunque quando arrivi lì che finisci, aggiornami, tanto io sono sempre qui al baracchino. Fabrizio ha raccontato un problema, dopo quello, il mio problema che c'era qui, di un altro problema si è messo e quindi c'è molto sopra di lavoro. Ma lo stai riparando, sì? Non io, per me ci sono io. Vabbè, dico, ma l'ho riparato, sì, lo stanno riparando. Sì, stanno cercando. Capisco, ma lo hai comprato su internet? No, me l'hanno prestato. Ah, ok. E io? E oggi tu muovendo ti stai? Io stavo andando a casa a conoscere adesso. E poi ci sono su quel che poi me ne farà ancora. Ah, ma gara. No, muovendo ti stai nel senso per acquistare quell'apparecchio. Perché ho capito lei già. Che ti sta muovendo per acquistare quell'apparecchio che volevi prendere. Parlerò a Claudio, di Europa. Sì, diglielo che lui conosce, dice di Abu, capito? Basta che non ti diamo dei sciuri. Adesso è vero, come lo spendi? Dove me lo prendo? Dillo a Claudio, dico, senti... Se tu vuoi dire sotto la mattonella. Sto facendo un acco in calamorso. Mi spendi dall'apparato, se senti che la motocicletta. Ah... cosa le stai facendo oggi? Tagliamo! Cosa sta facendo Roberto? Va bene, dai! Beh, Uge, sei arrivato? Quella è una moto per gente che assume, si sa che costa di più. Cavaga. Eugenio! E beh, sei arrivato? Ho capito, va bene. E quindi stasera si vola? Babbo sta volando, come ho detto, perché a Balai non si può volare in due, si può volare in uno, quindi è andato in due. E come puoi volare tu? Che zona puoi volare tu? Il due si può volare a Balai, no? Si può volare in due all'Argentiera, si può volare con la Pioggia, in Oggi, si può volare con poco, poi si può volare all'Istituto. Cosa? Ah, praticamente devi andare, aspetta, se no lo chiamo e glielo dico, aspetta, e sei lì nel parcheggio. Eia. Ricordi, ma quando volate filmate, li fate? Sì, positivo. Quindi già ce ne hai, ricordi, dai. Eia. E poi quando sei più grande vai so. Dobbiamo fare un corso con Babbo, come dice lui. Adesso volare in due è facile perché tuo padre che gestisce. Dopo bisogna fare i vini, tutto qua. No, sì, lo so. No, comunque qualche volta tutto il tuo fatto fare a me, che devi fare, mi ha aiutato un tipo e mi do io di solito. Ah, anche la terra che fa. L'atterraggio all'inizio che poi prende perché mi devo mollare i freni che mi devo alzare per mettere in punta di piedi per atterrare. Si non paga. Sì, adesso sto organizzando tutte le cose, devo organizzare la costruzione delle cose che mi faccio. Sì, perché è caldo. Sì, caldo. La fauna, terraggio, la fauna gli fa 10 a 0. Cos'è? C'è il tettoia di lamiera, cos'è? No, è tutto un legno, è stato però c'è un bel gallo, quindi almeno dentro casa è colbettato bene, perché quando fuori c'è caldo, dentro c'è fresco, e quando fuori c'è freddo, lì dentro c'è caldo, almeno, così posso stare meglio, e mi sto organizzando. Devo prendere una scrivania e poi mi porto sugli apparati da questi importanti e lascio sulle baracchine qua. Sì, ho capito. E quindi dobbiamo andare il cavo? No, io mi devo mettere una antenna in senso, mia moglie sta volando. Sì, ma te ne metti un'altra antenna? Sì, mi metto un'altra Blizzard e me la metto in senso. Sì, calma, andare. Ascolti, mi puoi registrare parlando e mandarmelo su WhatsApp? Ce l'hai il telefonino? Cosa vuoi la tua registrazione? La tua registrazione. Pronto? Vai. Sì, allora, guarda un attimino come sto uscendo. Io adesso sono lontano, un braccio intero dalla faccia. Un braccio, poi adesso mi sto avvicinando un po' di più, mezzo braccio, dai, poi di più non ce la faccio. Vediamo un po' come esce da così, che è mezzo braccio, a così, che è un braccio intero di lontananza. Ok, va bene. Comunque se senti lo strutturare, come ho appoggiato il telefono alla cassa, all'autoparlante esterno, non è in senso che fai solo così. Si cappa, grazie che mi ha avvisato. Ok, questo è il sempre tu. No, non sono io. E chi è questo bell'usignolo? Ti ho mandato la registrazione. ancora o sei scappato? No, ci sono, sono al telefono, scusa. Ok, va bene. Qualcuno sul canale 10? Ricordi un attimino che sono al telefono. Ah, ok, va bene, sono al telefono. Riccardino. Sono qui, stavo cercando di fare una chiamata generale sul 10. Fai questa chiamata generale, aiuto. La generale o il caporale? No, caporale. No, perché il problema è che non ho il KAP e quindi con il KAP avevo un sacco di canali in più per un sacco di canali in più per la propagazione, che io con questo ho solo 40 canali. Questo che apparecchio è questo che stai usando? Il Colt. Ma c'ha 40 canali anche in banda laterale? Sì, AMSSB. AMSSB puoi andare sul canale 21 e fai chiamata. Il canale è 21? E fai chiamata generale. Ti rispondono in tutte le lingue, francese, spagnolo, tedesco. E invece qual è il canale di chiamata, quello italiano, mi sembra così è? Quello lì sempre nicchia, sempre lì. Chi c'è ti risponde, capito? Quello che avevi chiamata generale, poi chi ti risponde ti risponde. Mi era allontanata la bocca al microfono, così è meglio. Si è arrivato un bel ponte. Che microfono stai usando, Riccardo? Il Palmare del Colt, quello originale. Esce forte, c'è una capsula buona quel Colt. Ho capito, adesso stavo cercando disperatamente, ma non la trovo, la capsula per il Super Series, perché non ha neanche la capsula, manca la capsula. Stai cercando una capsula? Stavo cercando su internet perché c'era qualche pezzo di ricambio. E anche se non è originale, basta che metti una capsula buona. Lo so, ma ho visto che ho un telefono di quelli vecchi, ma anche quelli hanno la capsula. Quali? Quelli bianchi sono quelli che hanno le capsule buone. Io l'avevo comprato in 6-9 al mercatino dei rifugi. Mi servivano le capsule e le ho smontate, mi ho preso le capsule e basta. Per le usate per i microfoni. Sì, ho di quei telefoni quelli a cornetta, si alza la cornetta, quelli telecom. E quelli lì vanno bene. La cornetta devi prendere da dove parli, la capsula. Però qui davanti, ma perché da dove si apre? La capsula però è dove c'è, come dire, tipo nel baracchino del microfono e il telefono. Sì, da dove parli, hai capito dove? Dove ci sono i buchettini, dove parli? Sì, già ho capito già. E quelle sono buone come capsule. Quello è il Sirio si chiamava quello, Sirio. Ah, ho capito. Sirio. Sì, sono le capsule del Sirio, se no vai e le compri da cosa, da... come si chiama? Da Fusaro. Ci sono quelle di citofono, quelle con la membrana verde attorno. Quelle lì sono buone lo stesso. Ho capito. Questo è un di quelle. Perché avevo un foto di telefono, ma volevo disfare e così prendevo solo la capsula e poi gli altri pezzi tanto non servono e lo potevo buttare. Ma dai, calmi un attimo. 1, 2, 3, provo, 1, 2, 3, prova radio, che problema c'è? Mi nomi Eugenio, manca. A parte Eugenio. Ciao Luigi, ciao, buonasera anche a te, dai. Mi sta non c'è nessun problema, sì, sopra il DB, mi arrivi sopra il DB, come faccio ad arrivarti 9-10? Riprovo un attimo. Guarda che non c'hai magari inserito l'RFD. sotto radio, prima eri più bassa, adesso sei 9.20, 9.25. Sentirà lì. Vabbè, ascolta, non è venuto quella persona? No, non è venuto, ha riscontrato un altro problema. Vabbè, faglielo controllare, poi ci accettiamo dopo, ciao a tutti, ci accettiamo dopo, Ricca. Ciao Claudio, ciao. Ehi, ciao Claudio. Sto piazzando il mobile, dai, era da Roberto e me l'ha portato lui con la furgonetta, capito Ricca? È arrivato poco fa, e quindi siamo andati a ritirarlo e me l'ha portato lui con la furgonetta, se lo sto montando e poi lo ci accettiamo dopo, ok? Che babò dopo deve passare a prendere l'altro. E già me l'ha detto Roberto, va bene. E già va bene. Aspetta un attimo, no vabbè, che devo dire a babbo perché forse mi dimentica che devi passare ciò che è già in officina, glielo dico. Diglielo che è già pronto, capito? Ciao. E già, ciao Claudio, a più tardi, adesso lo chiamo. Scusa che sto montando un mobile, dai, ci sentiamo dopo. Dammi un controllo, dai, dammi un controllo in Santiago. Non ho capito nulla, ti ho messo la portata. Se sta arrivando bene, c'è quasi 9. Deve essere che c'è in zona buona. 9, sì, Eugene, è 8 e mezza 9. Adesso stai usando sempre quel microfono, già. K. C'è il bip. Il bip è dell'apparecchio, cosa c'è? No, il microfono si usando nel bip più 5. Io, pensavo stavo usando il boxer. Stamattina non ce l'avevi i bip. Cazzo, c'è un caldo ragazzi, mi sto schiumando. Questo è nel baby più 5, dai, un po' lavorato, cavagava. Va bene, avanti Eugenio. Dove stai andando? Dove i? Come? A Molo Catania. Vado la cifra, fa il condizionale, vado l'ambito. Cappa, cappa, dai. Se sta arrivando qualche petroliere. Nella cifra. Già me li ho fatti anch'io tutti quanti quei punti, a portarvi roba da mangiare, a cacciare la roba, la carne a pezzi grossi. Adesso cambio microfono, devi dirmi come esco con questo. L'MB più 5. Con quello lì. Ehi, al cambio microfono è buono. Mi sono 2009, Gianni, cazzo stai prendendo in giro. Gianni. Prove tecniche e trasmissione, guarda come va con questo, Eugenio. Questo va meglio, ma questo è un 2009, non è il magno. Quella volta lo conosci, anzi l'ho conosciuto dal bip, però tu neghi l'evidenza sempre, sembra che stai nascondendo chissà che cosa, si conosce che è un 2009 dal bip. Sì, questo qua è il 2009, quello stamattina era il magno che stavo usando. Guarda, va meglio questo il microfono, Claudio. Manca paragone con il magno. No, questo? Eia, questo è 2009, ma è normale. Ah, no, non hai capito. Allora, io stavo usando prima l'MB più 5, adesso sto usando il Sadelta, sempre col 2009. Ed è meglio il Sadelta, hai capito? È meglio il Sadelta. Dove l'hai trovato? Qua a Sassari? È in zona, sì. Eugenio, eh? Eia. Allora, mi pita giù, sta giù, unisci, dove era di nocchi. Va bene, ecco le nuove nuove. Va benissimo, va benissimo. Ottima, ottimo per la truppa. No, no, Gianni, lascia il Sadelta perché se lo mangia quello lì. Adesso aspetta, me ne è uscito una volta. perché asciughi, ma dimmi tu. Ciao ragazzi. Ciao Roger, ciao, ciao, ci sentiamo stasera se coincide, dai, io mi sto pure andando a Simania, però devo aspettare adesso che asciughi la ruota, perché fa molto meglio questo microfono con quella radio già. Aspetta, mi ha detto che scrivi già forte. No, va bene, va bene, non è molto molto amplificata, ma è più amplificata dell'MB più 5, più 4, più 5. Ciao ragazzi, va bene, dai. Voglio provare l'NB più 5, facciamo un'altra prova sul Galaxy. L'NB più 5 sul Galaxy, te dico già da adesso, se la mangia quella e l'altra, tutte e due se le mangia, prova. Allora stavo dicendo, mi stavo ascoltando, come si dice, Eugenio, Dino Claudio, cosa gli dici a me? Cosa gli dicevi a Eugenio? Ah? Claudio? Via. Questo qui è l'MB più 5 col Galaxy Saturn Echo. Te l'ho detto, se li mangia. Se li mangia? Tutte e due, sia come tonalità che come potenza del radio. Il Galaxy. Ma il fatto che non ci sta qua, capo, un casino. Non mi ci sta, dovrei abbassare di 1, 2 la mesolina, dai. Ho detto, lei stava dicendo Eugenio, lo dico a Claudio, cosa succede? E dove va a prendersi una di quelle radio che hai tu, capito? Ho detto di là a Claudio, magari te ne trova qualcuna buona. Lì, quando gli devo io dalla mia, sta sempre tentennando, tu le cose da fare, quando gli dico io, adesso l'ho già venduta io. E adesso vedrà lui, non so cosa vuole fare, troverà una, già ce ne sono in giro vendendo, un 140 le basterà sicuramente, un 430, capito? Lui ha detto che vorrebbe mettersi una di quelle radio, ha detto dillo a Claudio, magari lui c'era qualcuno che conosce, che la sta dando. Se vuole spendere 4,30, vuoi più di 2 cicli, 4,30 non fa meno di 450 euro, già. Hai capito? Un 4,40, con 1,60 lo stesso. Non è che gliela regalano, un 140 può trovare 250, 300 euro, ma è un baracchino. Ehi, vabbè, già va bene lo stesso, io l'ho avuto e mi piaceva, ascoltavo, facevo. Ti fa fare tutto quello che vuoi, dai. Ma questa cosa quando la accendi non c'è potenza, a me non... Io ce l'ho, mi è sempre spento. Ce l'ho di scorta, non lo vendo perché era di Gian Paolo, ce l'ho di scorta. Nuovo nuovo funziona bene, però questa cosa quando la accendi non c'è volante, devi fare il fuoco. Poi sta sempre salendo la potenza, sempre salendo, devi stare sempre regolando, a me non mi piace. 4,30, 4,40 sono una ferruba. Quello sì. Io la cedevo un po' prima per salire e poi la regolavo, una volta che la regolavo non saliva più, una volta che la regolavi bene. E già, se fai passaggi lunghi non c'è niente da regolare, continua a fare sempre salendo. Cazzo che caldo che c'ho, mamma mia, come sto? Tra poco devo uscire da stanotte. Uscire adesso? Cazzo mi ha suicidio? Verso le 5 per scrivere mia, verso le 6, le 7, no, no, le 3, ma come c'era Roberto con la furgonetta libero? Vabbè, una volta regalata, e com'è questa, cioè c'è una scrivania con il ripiano? Io? Oh, non mi serve il ripiano, e ci penso di questo io ora con Giulio per fare tutto il mio lavoro, è una base per il computer, la sto assemblando, capito, di quelle con le ruote, perché il computer ce l'avevo, lo facevo in radio, e invece voglio fare una cosa separata sull'altro lato, sull'altra parete, capito? No, ho capito, sull'altra parete stai mettendo le radio vintage, così? Le radio vintage e il computer, per non averlo nella parte amatoriale, capito? E beh, se ti serve senti sempre quando guardate quei programmi per vedere se c'è propagazione, cioè, come fai? Ti risposta più di volte. È acceso, perché io sono dentro una UMI, Gianni. Come è? Allora, la prima base è 2,10 m, 2,10 m, la seconda base è 1,50 m, l'altra base è 2,10 m, io sono in mezzo, è una UMI, sono lì, vedo tutto, non è che mi devo girare. Adesso vedo se trovo qualcuno che si vuole comprare quella lampara a totto. Se no pazienza, rimane da una parte, l'ho tolto fuori quello, l'ho tolto dalla stazione e ci ho messo al posto di quello, ci ho messo 3.900. Quello è quello senza frequenzina, è no, quello normale. Vabbè, gliel'ho piazzato io a quella persona lì, quindi già lo so com'è. Sì, sì, è quello senza frequenzina, però è abbastanza spinto, deve essere che vanno... che l'hanno toccato prima di mandare, allora che l'hanno aumentato, 110 watt, esattamente 9 watt, dai, 9 watt, e 20 in banda laterale. Non ci era quando l'abbiamo provato, 9, 15, 18 in banda laterale, sono così quelle radio, già vanno bene, vedi, alla grande, alla grande. Uff, mamma mia, mi aggaggio, già che faccio. Non è ora di fare lavori, perché lo dovresti fare un po' più tardi, quando c'è più fresco. Lo so, io stamattina ho pulito gli uccelli, che se stavo sudando, a petto nudo, cazzo, non è che fai molti sforzi, però col caldo, poi sono sceso col cane a luna, l'ho portato verso mezzo giorno e mezzo, sono salito a luna. Perché poi devo uscire, non lo posso portare verso le 4, quindi l'ho portato verso l'una, dopo l'ho portato alle 8. No, non lo porto adesso perché ti suicidi. Oh, il mio è addormentato fuori nel poggiolo, con la tenda passata, c'è un po' di arietta, sta anche russando. E lì c'è un po' la testa, un pochino al sole, tutto il corpo è all'ombra, e lì è lì con il gatto, capito? Vabbè. No, intanto devo aspettare che asciughi la ruota, no, l'ho già assemblato, tutto già montato, bello, bello grande, bello grande. E adesso vado perché con le ruote, capito? Sto aspettando che asciughi il vinalville, quindi ho messo le ruote sotto, e quindi sto aspettando che asciughi il vinalville per spostarla, così la posiziono e poi inizio a mettere la roba sopra. E cosa sta usando lui? L'Uranus adesso a casa, l'altro l'ho messo nel furgone. L'Uranus! Quello non mi piace a lui, quello era il mio, l'altro Massimiliano, Massimiliano l'altro a lui, una bella radio quella. Cazzo uguale sono i segani, quanto le piace dormire dopo pranzo, mamma mia come sto. L'hai vista a Tyson? E così è Filippo di là, nel Poggio. Così è Filippo nel Poggio, la stessa cosa. Grumito che poco, lo senti, è tutto russato. Adesso rientrarsene dentro casa, nell'altro lettino, perché poi c'è la brandina. Dentro c'è il lettino. C'è il materassino, dai. E rientrare stasera. Raga, non è che te l'ho mandato. Addirittura è garanzia il mio, lo sai. Che cazzo sono uno? Sì, io conosco, li ho piantato io. Ce l'avevo uguale io, quello di... quello mio, uguale a questo. Così, preciso identico. Però la Colt, ok. Però anziché avere il coso rosso dei canali, me l'aveva messo blu, ma proprio il commutatore blu. E lo Smith è tutto blu, lo stesso, ma non lampadina, è solo Smith, un pacco di soldi. L'ho dato a Valerio, ho venduto a Valerio. Lo stesso prezzo, anzi, bugia, 300 euro, sì, 300 euro, 300 euro. E io, ma il tuo era modificato? Sì, Colt, ma Colt, però. Io Massimiliano, si è incazzato, non era Massimiliano, non l'ho venduto. Non voleva venderlo. Era molto bella, nuova, nuova, nuova, nuova, lucida, lucida, lucida. E il frontalino era... frontalino blu per combattimento, no? Però non lampadine LED, proprio tutto lo commutatore blu e lo switcher blu. Sì, sì, è bello quello, io volevo quello lì, mi piaceva molto. Adesso ce n'è un altro che mi piace, no? Mamma mia, come sto. Metto la billetta di Lugosi. mi ricordo come si chiama, mamma mia, ma un bel bello, un bel bello. Cosa già, scusa, è che sono... cosa? Aspetta che te lo mangio. Guarda, io, non perché ce l'abbia io, ma insomma ci vediamo, ce ne sono pochi, ma questo Cobra è la fine del mondo. Bello, bello, bello, bello, esteticamente è una cosa allucinante di bellezza, ma poi fa tantissime cose, è all'infinito questa radio, veramente, veramente, veramente. Infatti, ma io venduto un HF, mi tengo quella a 27. Ma è bello quello che mi hanno mandato. Questo qua, certo, 159, ma Eugenio l'ha pagato 178. Poi lo scontrino nel, diciamo, dove sono tutte le spiegazioni, c'è lo scontrino. Cioè, hai trovato la radio a 178 euro, ma se no? No, non ho capito. A Eugenio gli è venuto 178 euro. Il 2009. Ma che so, sì, quanto sei c'ero io? Ma deve essere lui adesso, si è stufato e vuole una radio più grande, capito? Vabbè, ma avevo un'antenna, ti dico, lo vuoi, guarda che c'è un affare sotto mano, lo vuoi, e aspetta, aspetta, aspetta, passato a Stefano se l'ha preso, se l'ha portato ad Olbia, un 440, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, lo sai tanto? 250 euro. Si poteva prendere benissimo, caspita, è un prezzato. C'è un affare, ti ho detto, 250 euro, nuovo, io non me l'ho tenuto perché ce l'ho già. C'ho 430, 440, 140. Se avessi era stato un 70 non l'avrei dato, avrei fatto tutte e quattro le linee complete perché ce le ho complete. E cazzo, sì, è venuto a Stefano con i soldi li ho fatto, capito? Vedi cosa mi rivolto? Però potevi prendere e poi te lo rivendevi a chi serviva, E magari ci avresti guadagnato anche qualcosa. No, no, non mi piace a me fare queste cose, non già. Se a me un amico mi dà una radio e mi dice la sto prendendo tanto, io non... non me ne servono soldi a fare queste cose, capito? A meno che non mi dice fai tu il prezzo, allora lo faccio io. I soldi erano i suoi, quindi 250 per 150 l'ho venduto. Non me l'hanno fatto nulla. Che ha pagato, vabbè. Ma se c'è, se poi non ti ne ha tutti, vabbè, come, come te l'hanno dato. Ci sono quelli che magari ci guadagnano anche, perché il valore della radio è almeno 400 euro, non è 250 euro. Mi stanno dando 400 euro per la radio così. Eia già, eia, però io non mi sono gli affari, se tu consideri che io in due settimane ho passato più di 1000 euro, per un affare e sto comprando, compra, compra, compra, poi se devo rivendere i prezzi li faccio io, se non devo rivendere rimangono lì, però tu perché sai quanto mi fai, quanto non mi fai, quanto non mi fai, in blocco, quanto è quello, 200 euro, dammelo, vabbè, e dove l'hai giudito, è stato un mese. Sì, sai come lui, sembra che sta sempre giocando, è peggio per lui. Vabbè, vedrà lui cosa fa, non lo so. Io glielo ho detto, gli ho dato un consiglio, gli ho detto chiedi la cosa perché lui c'è il giro, che magari lo trova uno può. Io già l'avevo trovato, sì, già, non ti ripeto. È troppo da Gengo, è dove devi fare i gocci. Le cose possono fare, si fanno, e ciccia, non è che in Italia romperti le palle a destra e a sinistra. Anche per lei. Questo è quello che sto dicendo io, poi vedrà lui quello che deve fare. Per cazzo di base, tu li raccogli, non è tutto. A questo caso, non so, se no, quello mi entra la sedia. Non è la sedia, in mezzo alle barre, c'è la porta cartiera. Qui, rimane la sedia in mezzo ai coglioni. Non mi piace, la sedia deve entrare dentro. Vedi, mi è saltata lo stagno a caldo addosso, cazzo, mi ha bruciato tutta la mano. Sono fatto un buco a me al lavoro, un buco qui. Mantenendo, stavo saldando due connettori di quelli per un sistema di allarme. Guarda, lascia perdere. L'unico mi ha bucato, cazzo. E con la saldatrice elettrica, quando era a scuola, io ho fatto la scuola come saldatore elettrosecitilitico alle professionali, no? una volta saldando, saldando all'americano, mi sono cadute le gocce dentro il petto, io mi sono tutto quanto mosso, e mi ha bruciato tutto il corpo, da tutte le parti bruciate, cazzo, ha camminato, cazzo, mi ha bruciato tutto di mano, già tu batti avanti, certo che fa male, sì. Beh, mi preparo, che devo venire vicino a casa tua adesso. E io già, sono qua, lascia tutto così che vai, più che bene, non bene, più che bene. Che va bene, questo è il Galassi, questo qui è il Galassi. Il Galassi è il Galassi. Il Saturn Ecos. Vabbè, ma 3009 va bene, io l'ho sentito a Eugenio, cazzo, come usciva, per quello me l'ho preso, mi piaceva come usciva lui. Va bene, gaffa gaffa. Beh, sentiamo dopo. Ehi, allora, magari adesso vedo, se provo le batterie me lo metto in macchina uno, così almeno se stampi modulando poi entro. Vieni ancora presto, adesso ti ho detto mi sistemo qua, poi vediamo, dai, già sono qua comunque, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Hola, attenzione Brecco. Canale 10, canale 10 vecchio. Ora, ora, ora. Vedo un po' per aumentare i caratteri, secondo me è toccato lì, perché la pagina è sempre al 100% qua, sempre. Quindi la rimetto al 100% e per l'email dove devo andare? Vado dove c'è scritto email. Guarda lì le postazioni qua, non so, caratteri, vedi un po'. Allora, email. Devo entrare nell'email. Prova lì c'è le postazioni, non lo so come è fatto io, capito? Ok, a posto, sì, era, si era abbassato lì, deve essere che l'ho toccato quando l'ho spostato. Hai visto? Infatti c'è, perché la pagina di internet è 100%, poi c'è gente che se la mette a 150%, dipende. Io la lascio così, con gli occhiali la vedo bene. Ma io a volte non c'ho occhiali, capito? Ah, ecco. Comunque, quello del baracchino dice che stava aspettando il corriere, là, e non è arrivato, dice me l'ha spedita oggi. E già arriva lui, ho già dato una bottiglia di avviare il baracchino. Aspetta. È arrivata Maria, lui, che bello Luca. Salutala, dai, ci sentiamo dopo lui. Sì, no, se ci sono dopo, sto uscendo, ciao Pompo, e beh. Buonasera a tutti. Come mai sei così basso? Sono a casa di Giovanna. Segnale 5, sì. Segnale 5, so, ehi. Eh beh, c'è il palazzo in mezzo ai piedi, sai, c'è metà al mazzo. E tu fai come le butta lì giù? Quando la ruspa, aspetta, aspetta. A Massimiliano, dillo. Io dico a Massimiliano se butta giù tutti i muri che ci sono nel circondario. Avvero. Scusa, dammi un rapporto di segnale, che ho lasciato l'antenna. Mamma mia, un altro, me la sto sparata, abbassa, fra. Abbassa, ti faccio un liscio. Abbassa la radio, un bel forte, blu. C80, ma se non avete C80, andrei al biliardo il C80. Ero qua, guarda adesso, va bene? Prima da fine ho vinto, Cla. L'ultimo lo lasci, lei avrà regalato Lucia. Già va bene, lascia così, lascia. Ok, dai, il processore è seguito, tutti. Adesso qua, sono poco, così com'è. Adesso qua c'è il seguito. E a 10, che piazza ci va? A 30. Aspetta, fra, cazzo, ero al computer io, aspetta che io riattacco il processore. E cosa stavi dicendo? Così c'ho il processore attaccato, 1, 2, 3. Mm-hmm. E senza processore. Va bene, senza e col processore, non c'è problema. Adesso l'ho regolata con la tutta, non la tutto più, ma la lascio così allora. No, lascia stare così che già va bene. Sì, adesso guardo, ho messo il tirante. L'altro tirante dell'antenna, un attimino. Si vede in barriera di gaggio, allora andiamo in bar. Tutti al mare, tutti al mare. Sono qua, allucinato. Sì, vai al mare, vai. Vai a guardare in costiera. A mostrare le chiappe chiare. No, mi pare che abbiano ulteriormente liberalizzato le spiagge. Però bisogna stare rari in antes, no, un po' distanti. L'uno dall'altro. Buonasera a tutti, ero a fare la spesa, ogni aggaglio e macchina. Non te ne dico. Lo stronzo mi ha fatto uscire, è giunto la che cuscio, non esce mai a quest'ora, sto muovendo dal caldo, affranno faccio. Sì, non dirlo a me che il caldo lo soffro molto molto più di te. Buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao. Dai Bianco per me un attimo, ci sentiamo dopo, ok? Sì, tutti ma non vieni nessuno, no? Oh, c'era Luca, ma sta uscendo, Franco California, mi sembra che senti tanto meglio anche, boh. Ci sono io. Ciao, c'è anche Natalino. Vabbè Natalì, hai visto l'ugaggio, eh? Mamma mia, mi voglia proprio andare. E per quello già sono dentro casa io. Ehi, vediamo se mi ascolta Franco, Franco California, mi copi? Niente, non mi copia nemmeno. E pochi sono 3 watt, porca miseria. Poi avevo sentito Pomponio anche. Pomponio a casa di Giovanna era. Ehi, sono a casa di Giovanna. Allora, di segnale qua sei 8 e 3 quarti. Guarda che differenza che c'è tra me e Luca. da lui 5 e qua 8 e 3 quarti, quasi 9. Sono il comandante da affilare, mi ha lanciato nel terrazzino, tanto perché fuori non l'ho messa la canna da pesca, capito? Ce l'ho in orizzontale intorno al, come si chiama, al terrazzino. Quanti metri è, Bobo? 7 metri. Ma schiumata? Non ho capito, se? Ho detto schiumata, eh. Ma l'ho pensato l'altro giorno in verticale, dall'altra parte, ma non vende nulla, capito? E se lo messo in terrazzino adesso, ma non la canna da pesca, la canna da pesca l'ho chiusa. Ho messo il cavo intorno alla vetrata del terrazzino, in orizzontale. Capito. Ciao Marco. Ciao Luca. Un bel caldo c'era oggi. Pensa che al parcheggio dell'Eurospin dal caldo ho messo la spesa dentro, ho aperto una bottiglia d'acqua dalla confezione d'acqua e ho bevuto e mi sono anche bagnato la testa, tipo i tossici. Addirittura. Ma c'è caldo anche adesso, sono uscito adesso io. Adesso usciamo in pantaloncini, ma è da marca corto, di grigio. Io ai pantaloncini ancora non ci ho pensato, però se continua così, caspita, pure al mare me ne vado. Non vedo l'ora. Vediamo. Ieri stavo male invece, un bel male. Lo sai. Boh, malessere generale, paranoia, c'è spossatezza proprio. Cosa vuoi ti dica? Te ci vuole gnogno. Niente ti è arrivato a te, no? No, me l'ha spedito oggi, dice che stava aspettando il corriere, il tipo, me l'ha spedita tramite posta. Poi te l'ho mandato un buon codice. Mi sono poco lunghi, mamma mia. Pensa che nel mio caso, anziché in 3 giorni, ci ha messo una settimana, lo sai. Una settimana. Causa Covid, causa che c'era il sabato e la domenica e mezzo. Vediamo se risulta. Ricordati, il tracciamento risulta dalle 24 ore dopo che l'ha spedito, capito? Ah, sì, allora ho detto un cazzo. Sì, perché le poste non... Così, insomma, dai, non è immediata la cosa. Prima deve entrare nei terminali e tutto. Poi alla fine la mettono online. Bene. Natalinus. Sì, sono in Oghe. Sono col microfono normale, Marco. Anch'io? Sì, ma niente di che, va bene, no? Sì, non andrà bene. Comincia, non risulta. Ma non risulta, ma se la doveva spedire oggi, ti risulterà fra 24 ore, te l'ho detto. Io vedo qua la cifra che ha speso, 28 euro per spedirmi il pacco. Dice che ha pagato per far venire il corriere a casa, non ci sono andati, in più ha spedito molto pacco, 28 euro. Come 28 euro per spedire quella cosa lì? Io ho speso, quanto è che ho speso? Te l'ho detto intorno ai 9 euro, giù di lì, 8,90, adesso non mi ricordo. E certi ne approfittano, mi con la scusa del Covid, tutte balle sono, le tariffe sono sempre quelle per spedire. Vabbè, dipende, chi trovi. Se ci fanno lo sgobbo mi dà la spedizione, loro magari spendono 10 euro alle poste e si tengono il resto dei soldi. Cava cava. Io l'ho pagato 23, già te lo ricordi. Infatti è un furto, ciao già, è un furto Antonio, 23 euro per spedire un baracchinetto che pesa un etto, sì e no, farabutti. Dice, ma il personale deve lavorare in sicurezza, tutte balle. Vai Gianni. Buonasera a todos, dai, sono rientrato adesso, c'è un caldo da morire fuori, non si può stare. Meno male un po' di ombra a casa. Ma pensa che io volevo riuscire, volevo andare a Platamona a vedermi il mare, tutta la costiera da Sorso in poi, tutte le discese a mare volevo vedere. Tanto cosa devo fare a casa? Affissare il muro, affissare il soffitto. Mettiti la radio in macchina e fai. ancora niente, deve fare il caldo. Infatti, questo ancora niente, oggi erano, il termometro diceva all'ombra 26 gradi, mica non è nulla, lo vedete quando sarà 30, 35 o 40 all'ombra, allora sì, con la mascherina è ovvio, ovvio. Sarà buona uscita con la mascherina. Sì, la mascherina, va bene. Comunque sto continuando a vedere signorotte prive di guanti ai market, prive di guanti, proprio senza nessun guanto. Però se la legge vale per uno, vale per tutti, perché sennò se si impanna il virus, il Covid, come si chiama, poi ci chiudono tutto di nuovo. Me. Poi io poi il supermercato che li fa entrare, già vi dico. Ah, poi ho sentito le parole di uno di Alghero che ha il bar, no? E dice, ho visto cose brutte, gente tutta ammassata, ha preso d'assalto Alghero, no? Questi giorni di libertà. Soprattutto anche il primo giorno di domenica sera, prima del lunedì, domenica sera, tutti ammassati l'uno all'altro, e così, ecco perché poi puniscono i vigili, che, perché la gente non si sa regolare, la gente non si sa regolare. Cosa vuoi ti faccia? Quello dipende dal supermarket, senza mascherina, senza guanti nel market non si può entrare, quindi bella cosa vogliamo fare? La guardia non c'era nemmeno più la, i portierattoli, no? Prima ti controllavano, adesso non, ho visto anche da Kona, da Copec, lo sai, ho visto due signore senza, prive di guanti. Vabbè, poi se i contagi salgono ci giochiamo l'estate, poi bisogna rompere il QSO a chi non si è protetto, a chi se ne è fregato, perché sicuramente c'è un bel di gente che se ne sta fregando alla grande. Cosa vuoi che ti dica, non so, riprendi Gianni, riprendi un altro messaggio, secondo me è più bello al contrario Gianni. No, va bene così, dai. Perché quello là è più grande, quindi più grande sotto e più piccolo sopra. Vabbè, se a te piace così, tienilo così. Io non ne ho di questi problemi di metterli uno sopra l'altro, perché già ne ho abbastanza di spazio. E beh, Natalino. Sì, dai, rimango in quel ritmo che sto facendo cose. No, Claudio, non è più grande, sono perfettamente uguali. No, quello è più grande, più largo, come altezza di più grande, quello è più stretto. Quindi si parte sempre dal più grande in quel senso e l'altro li metti sopra. Sì, ma gli enti sono uguali. Allora, cazzo di culo, mica fa un cabone, ma me lo stai dicendo, lo ci diamo tutti e due. È più alto, quello che hai sopra è più alto di quello che hai sotto. Già, mettiti i piccitti. Saranno uguali come dimensioni, lunghezza e larghezza, ma è più alto. Quindi quello più alto sotto, quello più stretto sopra. Ma no. Io qua non ce li ho tutte, dalla più alta, anche se sono della stessa lunghezza, però in altezza parto con quella più alta, quella leggermente appena appena più bassa e quella più bassa che sono le V, se no diventa un gradino fatto a ciremella. Sono identiche. Ma come altezza? Anche come altezza, sono identiche. Mica ricopra la stessa altezza del, di quello limi, forse ne hai compreso. E ricopra, sopra il magnum è più alto, alto, forse non mi stai capendo, è più alto, più grosso, chiamalo metti voi, più alto, leggermente ma è più alto. Sono belli tutti e due. Poi, sono belli tutti e due. Se fosse stato questo che sto usando io adesso con quell'altro celeste, vabbè, ma quello là non ha niente a che fare con quello celeste già, proprio è vuoto mi rispetto a quello celeste. Vabbè signori, dai, io me ne esco un po', se ce la faccio lo sa che la rientro, se ci siete domani più tardi, e se no domani, ciao. Ciao Luca, andando via. E la tavola a prendermi, dai. Cava, ho passeggiato allora. Ciao Lu, ciao, alla prossima. Ci sentiamo. Ciao, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Marco, ciao Natalia, ciao a tutti, ciao. Fa chi fa vedere buona giornata e stanno allungando. Ciucu ciucu. Stiamo vedendo quella pubblicità del Choco Blocco Nestlé dell'84. Te la ricordi già, diceva, quando è grosso così, quando è spesso così, è un piacere morderlo. Sì, ho trovato quei wafer, mi piace più di un quei wafer al cioccolato da MD. Ma buoni veramente sono. Marco, ci si. Eia. Un attimino che sto sventiando per raffreddarmi. Ah. Sì, oggi veramente il caldo è esploso. Meno male mi sentivo meglio, ieri ero proprio a terra, KO. Cosa stai dicendo? Ma ne sono accorto, ti ho telefonato, ma manco risposto via. Ma chi? Marco. Sì, ho trovato la chiamata persa. Era col telefonino piccolo, eia. Sì, proprio speso ieri. KO. Sono giornate, io per dire stanotte non ho dormito 5 minuti, a dire 5 minuti niente. Sì, ancora ce n'è. Esatto, quando inizia il caldo, si dorme poco. Sono del Cobra, Marco. Allora, 10 watt, 15 watt di portante bianca, 50 modulati. Cavagato. Il Cobra non è un serpente, è un baracchino mordente. E beh, Marco, oggi cosa ci racconta? Beh, dai, ci sentiamo dopo, mi faccio due passaggi in 10 metri, che c'è un po' di propagazione. Vado a giocarmi con questo baracco. Ehi, vai, tranquillo. Ma ci dovrebbe essere anche qua, se c'è 10 metri qualche cosa ci dovrebbe essere anche qua. E mi bocca fa 10, 27. Boh. 27 non ne ho mai fatti io 10. Vado a vedere se c'è qualche stazione importante da mettere al log. Manda amatoriale, ho già 10, non che la bonga fa. Qua quando c'è propagazione, saluti per educazione, ma a me, poco mi interessa. E vabbè, ognuno è già sua. A me mi interessa farli anche qua. Anche perché là non è busuva. Devi dire, a te ti interessa farli solo qua. Che poi quelli non sono di ex, quello è un collegamento diretto, ma non c'è propagazione, è un collegamento diretto, fare di ex in HF è una cosa diversa, devi girare le antenne e cercare la stazione che ti manca, lo stato che ti manca, capito? Ehi, vai tranquillo. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi se coincide, gappa, ciao a tutti. Ciao, Marco Condor. Sì, sto trafficando con lo smartphone. Dovete riprendere voi. C'è Natalino, ma è Fendicosa. Pochi altri c'è, non c'è più nessuno. Luca è uscito. Oh. E con chi parlo? Con Muro. Oggi sono tutti al mare, mi ecco perché non c'è nessuno. Sono tutti al mare a mostrare il chiappecchiare. Capito? Sì, al mare. A Porto Torres già fanno in fretta. Escono da casa, c'è il mare di... Io avrei una casa vicino allo Spoglio Lungo, se avrei messo la firma, porca miseria, sì, bello lì. Ma sempre inquinato vicino al porto, Perché? Avanti Giulio. Ciao Gianni, come esce questo 78 plus su Gianni? Come sta uscendo? Tranquillamente, è la radio normale ma è bella. Sì, è normale, è logico, un 78 plus, quello europeo diciamo, vabbè, adesso so che funziona ancora, no, l'ho tolto per accenderlo così, è già acceso una mezz'oretta scaldando e adesso ho voluto provare. Righe da prendere. Avanti Riccardino. Ehi, ciao a tutti, sono appena tornato a casa.